Le condizioni sono toste, gli spazi, almeno dalla lettera confidenziale, sembrano pochissimi, vicini allo zero, ma noi vogliamo andare a verificare, perché allorquando ci si confronta poi si trova la modalità per uscirne, si trovano anche le condizioni. Io credo che l'aspetto sul quale occorre lavorare è la prospettiva. La prospettiva è la flotta, che porta con sé anche le questioni del lavoro. Quindi non stiamo dicendo via tutto, cancelliamo, noi ci stiamo dando delle priorità, diamo delle priorità al confronto, diamo degli obiettivi al confronto, andiamo con una posizione volta a costruire, sappiamo che non vi è per nessuno alternativa al negoziato e alla trattativa. Noi puntiamo a fare quella cosa che non ha fatta il governo e l'azionista nel rapporto con Air France, avendo poi da aggiungere la tutela degli interessi più prossimi, e cioè la tutela del lavoro e dell'occupazione.